di mamma. Sono paura di quello di una puttana. Parlo d'amore ma quello di mamma. Non parlo di quello di una puttana. Rischio per il pane tutta settimana. Sono cresciuto coi soldi di papà. Questa vita puttana mi ha fatto male star lontano da casa. Siamo in tre fratelli. Il salotto era la nostra camera. E tu immagina, ho visto cose che manco ti immagini. Mamma, perché piangi? Valgo miliardi di quanti tuoi pianti. Pensa solo a te o non pensare agli altri. Nessuno pensa a te, egoisti bastardi. Ora sono famoso, rischiavo lo sfratto. Ora mi compro pure i proprietari. Ho un amico Aziz Senegali. Ho più amici sbarcati dal mare. Sono stato male, male, male, male, male, male, male, male, male. Senza mani, mani, mani, mani. Sono stato male, male, male, male. Sono stato male, male, male. Senza mani, mani, sono stato male. Ho la testa piena di problemi. Hai problemi, ho, ci penso domani. Ci penso domani, ci penso dopo. Magari, non ci penso proprio. Un vero uomo, lavora sodo. Dormivo sopra un divano scomodo. Da una famiglia povera. Sono più povero, morirò comodo. Papà è raro che sobrio. Papà mi sa che hai bevuto un po' troppo. Mamma piange perché ne ha viste troppe. Non dorme finché non rientro la notte. Suo marito che la riempie di botte. Mamma guerriera m'ha donato la forza. Mamma guerriera m'ha donato la forza. Mamma guerriera m'ha donato la forza. Sono stato male, male, male, male, male, male, male, male, male. Senza mani, mani, mani, mani. Sono stato male, male, male, male. Sono stato male, male, male. Senza mani, mani, sono stato male. Ho la testa piena di problemi.